voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. How about you? How did you manage to stay single all these years? Well, I'm bisexual, so that's hard for a lot of guys to understand. Well, you know, I read somewhere that most women are, if you really ask them honestly, have tendencies towards, I mean, everybody has Ted, a bit of... I'm fucking with you. Yeah. All the way from Pettenweem to the rock and roll dream, all the way from East Nuke 5 to the R&B life. Did you dream of lochs and highlands? Mezzanotte e 7 minuti. Il cane era disteso, sull'erba, in mezzo al prato, di fronte alla casa della signora Shears. Gli occhi erano chiusi, sembrava stesse correndo su un fianco, come fanno i cani quando sognano di dare la caccia a un gatto. Il cane però non stava correndo e non dormiva. Il cane era morto, era stato trafitto con un forcone. Le punte del forcone dovevano averlo passato da parte a parte ed essersi conficcate nel terreno perché l'attrezzo era ancora in piedi. Decisi che con ogni probabilità il cane era stato ucciso proprio con quello, perché non riuscivo a scorgere nessun'altra ferita e non credo che qualcuno verrebbe mai in mente di infilzare un cane con un forcone nel caso in cui fosse già morto per qualche altra ragione, di cancro per esempio o per un incidente stradale. Ma non potevo esserne certo. Questo era l'incipit di Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon. Nothing last, did my best. È la quarta parte di Eclettica, quella che si è aperta ormai 9 minuti fa. Giulio Caperdoni in vostra compagnia per l'ultima parte della settimana, che si è aperta con, a parte lo spezzone cinematografico, Ballads of the Book, quello che viene definito, sottotitolo, Joint Effort, uno sforzo comune fra musicisti e scrittori scozzesi. Per me, almeno per me, sono più noti molti dei musicisti. Comunque il brano che io ho scelto è quello che vede assieme Aidan Moffat and the Best Offs alle parole di Ian Rankin. Poi ci sono scrittori per altri 17 brani oltre a questo, con altrettanti musicisti, fra cui Idlewild, King Creosote, Malcolm Middleton, ovvero sia l'altra metà di Aidan Moffat, Aerogram, Sons and Daughters, James Yorkston, The Rosa. Sto scorrendo velocissimamente la lista del disco che poi è stato pubblicato dalla Chemical Underground. In seguito invece è stata la volta degli Urlaub in Poland, disco per la Tomblab, per il duo di Colonia, dal titolo Health and Welfare, dal quale tipicamente ci ascoltiamo Wanderlust, e quest'oggi non abbiamo fatto eccezione a questa regola. Si prosegue la terza, anzi la quarta parte di Eclettica con Music for Total Chickens da parte di Rafter, progetto Asmari Giri Records. Hope è il titolo del brano. Hold your hopes up high. I can't. My spirit's broken. Don't let your dreams die. Spirit's broken. You can get better if you try and try and try and try and try and try and try and try and try and try and try and try. It's working. It's working. It's working. It's working. It's working. Floating through the tunnel, the door, damp and dazed in the morning swarm. Nobody that night to keep me warm. So I did go on. It has only begun. Lei si chiama Rose Camp, viene da Bristol, UK, è relativamente giovane, ha poco più di 21 anni, nel senso che ha 21 anni e qualche mese. Rose Camp, che incide per One Little Indian, il titolo dell'album è Handful of Hurricanes, dal quale ci siamo ascoltati Little One. Direi di rimanere sulle voci femminili e di ritornare su una voce femminile italiana che però ha collaborato molto negli anni, soprattutto con Hugo Race, che già ci eravamo ascoltati 2 settimane fa. Sto ovviamente parlando di Marta Kolika, che è uscita con un album a suo nome dal titolo Pretty e Unsafe. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 2, He's Telling Me All. I want you to be happy, Mary. But I'd be happiest with you. You're fucking with me, right? What about Brett Favre? What'd I tell you the first time we met? I'm a Niners fan. The best. There were many. in 99, we were dusting boxes, Blackford on the ground. We were drinking just lemonades, and now I'm coming clean. One girl with a band in the hand, one girl, one shot, she's the hell of the band. She said, darling, we're gonna fight. All right, all right, all right, all right. I'm starting to move around on the nail like Speedy Spiders. I'm starting to move around on the nail like Speedy Spiders. And I say, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, you love me, I love you, I love you, I love you, I love you. È un momento tutto italiano all'interno di Eclettica, in quanto ci siamo appena ascoltati i Mercy Miss Monroe, a seguire Marta Collica. Mercy Miss Monroe con Some Minor Crimes, questo è il titolo del loro nuovo disco uscito per Ghost Records, di cui abbiamo parlato approfonditamente la settimana scorsa. L'estratto era Gang of Blondes. Momento italiano perché si prosegue con un'altra etichetta e un altro gruppo italiano. In questo caso l'etichetta è la Black Candy Records, il gruppo è quello dei May I Refuse. Weather Reports è il titolo dell'album e il brano si intitola Athens. They belong to the ice of Morning Stranger è il brano da parte di Monta dal disco The Brilliant Masses, che è uscito da qualche settimana per la Klein Records, che ha avuto l'onore di chiudere l'intera settimana di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, che vi ricorda il 30 marzo questo tentativo, questa puntata zero di Eclettica nel mondo fisico, non quello dell'etere, in un luogo amico, la libreria Edison ad Arezzo, dalle 21.30 in poi. Proprio il format, cioè la struttura di Eclettica: musica, incipiti letterari e spezzoni cinematografici, per vedere un po' l'effetto che fa. Alla prossima.